24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7.32 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati con 24 mattino in diretta fino alle 9. Vi voglio subito lanciare il sondaggio che potete già votare sul sito radio24.it nella sezione bianco o nero. Ci riferiamo al terribile omicidio di cui abbiamo sentito anche in GR24, l'omicidio di Sana, uccisa molto presumibilmente dal padre, molto probabilmente perché frequentava un ragazzo italiano. Ci vogliamo chiedere questo, visto che il ministro Mara Carfagna, nell'annunciare che il governo si costituirà parte civile, ha detto è un'assurda guerra di religione. La domanda che vi poniamo è proprio questa: secondo voi c'entra la religione in questo caso? Votate sul sito radio24.it e noi andiamo alla lettura dei giornali. In primo piano. Ovviamente c'è anche questo tema sui giornali, davvero tantissimi commenti che vedremo, il tema del nostro sondaggio, questo terribile fatto di cronaca, ma le aperture sono dedicate sostanzialmente a due fatti: l'economia, l'allarme dell'OCSE sulla disoccupazione in Italia e soprattutto la vicenda politica legata al lodo Alfano. È questo il tema più scelto dai giornali come aperture. Il Corriere della Sera: sì al lodo o rischio dimissioni. Si tratta sostanzialmente del dossier presentato dall'Avvocatura dello Stato per l'udienza del 6 ottobre alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere se il lodo Alfano appunto è costituzionalmente valido oppure no. Senza lodo premier a rischio, così titola Repubblica. Lodo premier a rischio dimissioni, questa è La Stampa. E poi con ampio risalto anche l'OCSE, appunto l'OCSE nel 2010 senza lavoro, un italiano su 10. Il Sole 24 Ore titola invece sulla richiesta di Marchionne: incentivi o auto al disastro. L'appello di Marchionne per il 2010 e anche l'allarme OCSE ovviamente. Il Giornale: ora i farabutti vanno in piazza. Si parla ovviamente della manifestazione per la libertà di stampa di sabato. Per Libero, questione, esplode la questione fiscale. Il Nord-Est si ribella alle banche, indagini su un milione di assegni, conti all'estero gli altri furboni. Per Il Messaggero, lodo Alfano, alto là di Palazzo Chigi. Insomma, lodo Alfano, come detto, è l'apertura principale dei giornali. E tra l'altro ci sono vari commenti e interviste. Mi ha colpito una di queste interviste, quella all'avvocato Gaetano Pecorella, uno degli avvocati di Berlusconi, che dice sul Corriere della Sera: tesi giuste, chi fa il premier non può difendersi come gli altri. E l'intervista sotto l'articolo: Palazzo Chigi senza lodo Alfano rischio dimissioni. Si riportano ampi stralci appunto della tesi sostenuta dall'Avvocatura di Stato. Norma legittima con lo stop, altrimenti danni seri all'esercizio delle funzioni del premier. E dice Gaetano Pecorella: quello del Presidente del Consiglio è un impegno a tempo pieno, con visite di Stato all'estero, continui obblighi istituzionali, per cui gli verrebbe negato il diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini. E ancora, nell'intervista concessa a Dino Martirano: io dico che il Presidente del Consiglio svolge una funzione che non può essere interrotta, dice l'avvocato Pecorella. O si difende o fa il Presidente del Consiglio. Quindi, in termini di razionalità della norma, questo serve a dimostrare che il principio di parità coi ministri è rispettato, perché avendo una funzione del tutto particolare, il Premier non può fare l'una e l'altra cosa. Ovviamente, sapete, lodo Alfano è quella legge che sospende i processi penali per le quattro più alte cariche dello Stato. Ne discuterà appunto la Corte Costituzionale il 6 ottobre, dovrà decidere se questa legge è costituzionale oppure no. Sul fronte politico, se si vuole, delle veleni e delle polemiche politiche, campeggia anche quello che molti definiscono il flop di Porta a Porta. Il flop di Porta a Porta vale a dire lo share molto basso della trasmissione, che è stata battuta da una fiction di Gabriel Garco, talmente battuta da una fiction di Gabriel Garco che sulla Stampa Mario Calabresi fa un editoriale, il direttore: quando manca il luogo del confronto. L'intero palinsesto televisivo, scrive Calabresi, era stato accuratamente studiato per concentrare l'attenzione su Silvio Berlusconi, che decretava il ritorno a tempo record di alcuni sfollati ad una vita più decente, ma ciò non è accaduto. Perché, si chiede Calabresi più avanti. I telespettatori hanno detto che non sono interessati ai monologhi, al pensiero unico, che vogliono poter scegliere. Da questo punto di vista stupisce la strategia messa in atto dal Presidente del Consiglio alla fine di questa estate, con le querele, il fastidio trattenuto a stento, le accuse sistematiche a tutti gli organi di informazione. Stupisce perché Berlusconi è indiscutibilmente il più efficace comunicatore che la politica di questo paese abbia conosciuto. Ha costruito le sue vittorie sui messaggi positivi, diretti, sulla capacità di incantare e convincere. Sa benissimo che il contraddittorio paga in termini di ascolti e di stima. Il politico che accetta di sottoporsi alle domande ed è capace di convincere con le sue risposte è il politico che vince. E invece, sostanzialmente, dice Calabresi, irritato invece dalle campagne di stampa, circondato da una nuova leva di consiglieri che gli suggerisce ogni giorno lo scontro come antidoto a tutti i mali, Berlusconi ha chiuso la porta al confronto in una puntata, quella di Vespa, che faceva venire un gran sonno. Ma c'è polemica appunto anche sui dati, c'è chi dice flop, c'è chi dice no. Ci sono in retroscena, su Repubblica, un autogol, anticipare l'orario e sul direttore generale della RAI, Mauro Masi, ci sarebbe l'ira di Silvio Berlusconi. Si dice è gelo anche con il conduttore, quindi Bruno Vespa, Chiosa, Iena, pagina 3 della stampa. Abbiamo detto che è stato battuto da Garco, lunga vita al compagno Garco. Questo è il commento di Riccardo Barenghi, alias Iena. Sulla stampa, ma al Corriere della Sera concede un'intervista. Chi? Bruno Vespa. Parla proprio lui, il conduttore. Lo fa in un'intervista a Paolo Conti, si difende, nessun flop, e se Berlusconi è duro, la colpa è di Rai 3. Dice Bruno Vespa in questa interessante intervista, ma quale flop? Siamo seri, non ci aspettavamo grandi risultati. C'era il calcio, Juve e Milan sono le squadre che attirano gli ascolti più corposi. Vedrete che stasera, Ballarò, perché è stato spostato a stasera, con una concorrenza meno agguerrita farà più ascolti di noi. E poi ancora il confronto con Garco. Mai avrei pensato di battere una fiction di Canale 5, è ridicolo, dice Bruno Vespa. Nessuno che sappia un minimo di TV lo farebbe. E poi la cancellazione di Ballarò, l'ho detto, uno slittamento di 2 giorni non è un attentato alla libertà di stampa. Gli chiede Paolo Conti, ha scritto Aldo Grasso, Vespa doveva opporsi allo slittamento. Grasso mi attribuisce straordinari poteri che non ho, non solo sui palinsesti Rai, ma anche di Mediaset. Mi spiace deluderlo. E ancora sull'intervista dice, ma qualcuno le dice che lei era troppo accondiscendente con Berlusconi. Io spalla, risponde Bruno Vespa, sfido chiunque a individuare qualcuno che abbia rivolto a Berlusconi domande sul conflitto di interessi con la mia stessa chiarezza. Insomma, un Bruno Vespa molto combattivo che ribatte colpo su colpo. Infine, perché reagisce male quando si discute di lei, di Porta a Porta, dei suoi compensi? Ho tanti motivi di doglianza, dice Bruno Vespa. Tra il 93 e il 94 avevo portato il TG1 al successo contro il TG5 e fui epurato per un anno e nessuno protestò. Nella campagna elettorale 94 fui relegato al pomeriggio in una trasmissione con Giovanni Sartori. In prima serata c'era Lilli Gruber, nessuno disse niente. Pierluigi Celli minacciò di chiuderci, salvo pentirsi. Silenzio. La libertà di informazione dove comincia e dove finisce? Perché solo i miei sono pubblici di compensi, quando quelli di Fabio Fazio, Daria Bignardi passano in consiglio e filano via in silenzio? Molto combattivo, come detto Bruno Vespa. Sulla presenza in TV di Berlusconi c'è anche un commento di Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio, il segreto dell'immodestia. Berlusconi, scrive Giuliano Ferrara, è certamente un individualista espressivo. In questa formula è riassumibile, sociologicamente straparlando, la sua unzione democratica, il suo sultanismo, l'autoincensamento spinto e il senso permanente di un destino che si compie, sta per compiersi, deve compiersi, con tutta la forza dell'energia provvidenziale incarnata nella storia. Il cavaliere civetta con la storia modesta della zia Marina, che si diceva quanto sei bella allo specchio, perché se no non me lo dice nessuno. ma non inganna nessuno con vaghi accenni autoironici. De Gasperi, in fondo, è solo l'ultimo termine di paragone tratto dall'immensa immodestia, dal formidabile egocentrismo e dalla gigantesca vanità del nostro Presidente del Consiglio. Prima di lui erano venuti Giustiniano coi suoi codici, Napoleone per le sue campagne fulminee, il Re Sole per la sua esposizione sacrale e corporale al continuo sguardo della corte e del pubblico. Ma più avanti Ferrara dice: se Berlusconi ha talvolta un ego da manicomio, non è che sia pazzo, è solo moderno. La rivoluzione culturale dell'individualismo espressivo, di cui è il più grande e clamoroso campione in Europa e ormai forse nel mondo, è la stessa che portava Cassius Clay, alias Muhammad Ali, a dire alle telecamere che era il pugile più grande di tutti i tempi, o induceva lo scrittore e performer Norman Mailer a pubblicare un libro intitolato Pubblicità a me stesso. Ecco, la pubblicità, il marketing secondo le regole. Questa era Giuliano Ferrara sul Foglio. La politica è anche animata da retroscena, da un'intervista interessante a Gianni Alemanno, sindaco di Roma, ma anche uno dei cosiddetti colonnelli dell'ex Alleanza Nazionale. Parla ad Aldo Cazzullo: nel PDL il cavaliere è in primo piano, dice Alemanno. Gianfranco, cioè Fini, viene subito dopo. Che succede? Chiede Cazzullo. Ritorna Alleanza Nazionale? Non è pensabile, dice Alemanno. Lo stesso Fini ha detto che non si torna indietro. Anzi, si procede verso il bipolarismo europeo. E poi la leadership di Berlusconi è incrinata? Al contrario, risponde Alemanno. La leadership si misura col consenso popolare. Il consenso per Berlusconi è altissimo. E poi la vicenda del dossier a luci rosse su personaggi di AN, una vecchia vicenda che coinvolge non Fini ma un suo collaboratore dal quale lui ha preso le distanze, risponde Alemanno. Dunque ha fatto bene a querelare il giornale? Sì. Sarebbe sbagliato se l'attacco fosse stato politico. Quando si entra però nella sfera personale, allora la querela è legittima. Infine Alemanno dice: nessuna possibilità e non vedo elezioni anticipate, anche se in realtà su questi retroscena oggi si cimenta Repubblica. Massimo Giannini in prima pagina: l'alleanza trasversale che prepara il dopo Silvio. Secondo questo fondo di Massimo Giannini ci sarebbero i quattro anelli che già lavorano al dopo Berlusconi. E chi sono i quattro anelli? Partendo dalla dichiarazione di Emma Bonino, che si sbilanciava, secondo Giannini, a Palazzo Madama, dicendo le possibilità che il governo cada sono al 50%, i quattro anelli sono Gianfranco Fini, presidente della Camera, che scrive Giannini è in costante movimento. Poi c'è Giulio Tremonti, il ministro dell'economia, fino a qualche tempo fa era il genio dei numeri, ora per il Cavaliere è già diventato il difficile genio. Il terzo anello per Massimo Giannini è Massimo D'Alema. Da anni viene additato come potenziale inciucista, ma da giorni è a sua volta sotto il fuoco incrociato di Libero e del Giornale per i suoi incontri in barca con Tarantini. L'altro ieri sera, a porta il Cavaliere è tornato a sparargli contro con una violenza che non si ricordava da tempo. Infine, il quarto anello è Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC che sta lottando per non farsi risucchiare dal PDL. Conclude Giannini in questo articolo sui quattro anelli che già lavorano al dopo Berlusconi: sembra fantapolitica, forse lo è, ma anche di questi scenari, sia pure costruiti a tavolino, si discute in questi giorni e il Cavaliere lo sa. In primo piano. La cronaca ci porta a analizzare, come fanno tutti i giornali, questo terribile omicidio. C'è un bellissimo volto che oggi troverete su tutti i giornali, in uno straordinario sorriso, quello di Sana, 18 anni, colpisce come un pugno nello stomaco davvero, perché stride con la incredibile fine, la drammatica fine di questa ragazza uccisa, sgozzata, molto presumibilmente dal padre, che si opponeva alla relazione con un italiano. È assurda guerra di religione. Io, ministro, sarò parte civile, così sul quotidiano nazionale. Viene citata Mara Carfagna. Tra l'altro, ricordo, questo è il sondaggio che vogliamo fare oggi, ne parleremo alle 8.30, è già votabile sul sito radio24.it e vi chiediamo proprio se secondo voi c'entra la religione oppure no in questa vicenda. Sono tantissimi commenti, ne ho scelti alcuni, i più estremi se vogliamo nella loro posizione. Magdi Cristiano Allam scrive su Libero: Italia gola sono la punta dell'iceberg, la violenza è insita nel credo islamico, dice Magdi Allam. Sbagliano di grosso, scrive, coloro che immaginano che l'atroce delitto consumatosi a Montereale Valcellina in provincia di Pordenone, ai danni della diciottenne marocchina Sana Dafani per mano del padre, colpevole di essersi fidanzata col 31enne italiano Massimo De Biasio, possa essere catalogato come un fatto isolato, opera di una scheggia impazzita. Così come sbagliano di grosso coloro che, accecati irrimediabilmente dal relativismo, ci dicono che tutto sommato queste cose succedono anche da noi, che ci sono stati dei casi di padri che hanno assassinato violentemente le figlie. Una volta trovato il caso nostrano, snocciolato il nome e il cognome del padre colpevole del peggiore dei crimini, il gioco è fatto. Nessuno che si prenda la briga di entrare nel merito dei contenuti, di contestualizzare il fatto nel tempo e nello spazio, finendo per mettere sullo stesso piano un omicidio perpetrato nel nome dell'Islam e di una tradizione contraddistinta da una lunga scia di sangue, con un omicidio che contraddice i valori non negoziabili che sono il fondamento della nostra civiltà e della fede cristiana. Questo Magdi Cristiano Allam, mentre Renzo Guolo, che vi anticipo sarà anche nostro ospite alle 8.30 su Repubblica, scrive: al contrario, è facile prevedere che questo efferato delitto rilancerà le argomentazioni dei teorici dello scontro di civiltà, ridislocato ormai a livello locale, sull'impossibile convivenza tra musulmani e italiani. In realtà l'esercizio della cosiddetta violenza riparatrice rivela crepe molto larghe all'interno di una cultura che nell'immaginario collettivo appare fortemente coesa. La rivolta delle figlie, tanto inaccettabile quanto eversiva, perché scardina l'ordine tradizionale a partire dal vissuto quotidiano e dalla famiglia, esprime la richiesta di autodeterminazione di giovani donne che si ritengono comunque musulmane, portino o meno il velo. Più che di Islam si dovrebbe parlare di musulmani, coi loro diversi modi di vivere la fede e i loro comportamenti concreti. Tra questi vi sono osservanti e fondamentalisti, ma anche aderenti a una religione vissuta essenzialmente come cultura, o secolarizzati. E, tra l'altro, nei vari commenti voglio segnalare La Stampa. La Stampa, chi è andata a intervistare? La madre di Ina. È un caso che ricorderete, 3 anni fa uccisa dal padre e da alcuni parenti, un caso davvero che richiama quello di Sana oggi. Ebbene, la madre di Ina dice: capisco mio marito, l'ho perdonato, nostra figlia sbagliava. Alcune frasi, poche, però davvero molto forti. Tutto quello che è successo, dice ora la madre di Ina Salem, caso di 3 anni fa, non è come è stato scritto, la faccenda del fidanzato italiano non c'entra niente. Mio marito è un bravo uomo, non ha mai sgridato né picchiato Ina, ma eravamo preoccupati. Lei diceva che sarebbe tornata a casa e non lo faceva. Frequentava un brutto giro, prendeva droga, non lavorava, come si è scritto, aveva sempre bisogno di soldi. Ripeto, poche frasi, ma molto dure, che fanno molto, molto pensare. A questo è accostato un altro fatto di cronaca che troverete sui giornali. Lo cito da Il Giornale. È successo a Prato, rifiuta di darle l'elemosina, la giovane Rom lo uccide. Un uomo di 72 anni aveva appena prelevato dal bancomat e gli si è avvicinato una Rom di 22 anni, probabilmente per chiedere un po' di elemosina. L'uomo l'ha allontanata bruscamente e allora Aida Alilovic, 22 anni, si trovava a girovagare da quelle parti, ha tirato fuori un coltello con una lama di 20 cm e gliel'ha piantato nel petto. È un altro fatto di cronaca che, ripeto, trovate ovunque con tanti commenti. C'è ovviamente anche chi lo strumentalizza, ma tant'è, il fatto c'è. L'economia, incentivi o auto al disastro? Questa appunto è l'apertura, come detto, del Sole 24 Ore. L'appello di Marchionne per il 2010. Ieri Marchionne ha parlato a Francoforte, al Salone dell'Auto, ha detto anche qualcosa su Chrysler, lo trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore. La ristrutturazione di Chrysler è più difficile del previsto, dice il numero 1 del Lingotto. Siamo rimasti sorpresi da quanto poco sia stato fatto nei 24 mesi precedenti il nostro arrivo. Anche se Marchionne non svela molto riguardo alla produzione, dice solo che la Bertone produrrà Torino auto per Chrysler, nessuna conferma invece per la 500 possibile produzione a Toluca in Messico o l'ammiraglia Alfa Romeo in Canada. Ma sul Sole 24 Ore voglio citare quello che è lo scudo fiscale, che è partito da un paio di giorni. Sullo scudo già prove di allargamento, così dice il Sole 24 Ore. C'è un emendamento presentato dal deputato Salvo Fleres del Popolo della Libertà che vorrebbe estendere alle imprese estere e dare una copertura più ampia per i reati tributari. Ci sono ovviamente polemiche politiche, PD e Italia dei Valori già accusano, si vuole introdurre anche per il falso in bilancio lo scudo fiscale, mentre respinge queste accuse il leghista Giorgetti, non è così, ci sarà un'interpretazione più restrittiva. Veniamo alle ultime segnalazioni, che sono queste. Dal Corriere della Sera, ma c'è in altri giornali, sarà anche il tema di Oscar Giannino 9 in punto, ve lo ricordo. L'imputato non c'è o fa il badante? Falsa partenza dei processi ai clandestini. Sapete che ci sono molti processi per il reato di clandestinità introdotto da poco. Ebbene, che succede? Che ci sono tante udienze che vengono rinviate, non si capisce molto e ci sono anche molti giudici che si rifiutano di applicare questa legge. E questo è il tema. Può un giudice rifiutarsi di applicare una legge dello Stato? Le procure di Bologna e di Agrigento, per esempio, dicono questa legge è incostituzionale e dunque non l'applichiamo. E sempre riguardando il tema della giustizia, voglio citare il bel René, Renato Vallanzasca. Renato Vallanzasca oggi dice alla stampa: non sono né redento né pentito perché non sono cattolico né credente, però che cosa fa? Faccio il dissuasore, vado volontario nei ragazzi delle comunità protette come Saman o il Gabbiano, quelli che dicono vorrei diventare come te, il Vallanzasca del 2000, sei un mito, e che faccio? Ve lo dico io come si diventa un mito, racconto i miei 40 anni di galera, faccio vedere le ferite sul corpo, faccio toccare le cicatrici sulla testa, la mezza chiappa che mi è rimasta, l'anca operata, faccio capire che un mito che ha passato la vita in galera è un bel coglione. Non è semplice, non è facile, loro fanno i duri, sono sfrontati più di quanto eravamo noi, ma in fondo sono dei puri. E con questa segnalazione ci fermiamo per la rassegna stampa di oggi. Voglio ricordare il sondaggio che poi tratteremo dalle 8.30 alle 9, il caso terribile di questa uccisione di una ragazza marocchina uccisa dal padre perché frequentava un italiano. C'entra secondo voi la religione? Siamo qui alle 8.18 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci con l'economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci con Deborah Rosciani. Alessandro, buongiorno, buongiorno e buongiorno a tutti. Eccoci qua. Si potrebbe dire. Spesso quando uno dice ti metto a pane e acqua, no? Sì, ieri abbiamo parlato dei pane. È venuta così. Oggi di acqua, domani oggi parleremo di vino. Vabbè, dici, così siamo a posto. Come ti sembra l'acqua del rubinetto di Milano? Dicono che sia una delle migliori. Quindi tu non la bevi l'acqua del rubinetto? No, delle migliori, sì, quindi in teoria si può bene. Dicono che sia una delle migliori. Ma tu non la bevi. Vabbè, d'altronde è anche bimbi piccoli, per cui naturalmente magari sei un po' più orientato a comprare l'acqua della bottiglia, quindi l'acqua oligominerale. Ma in realtà la qualità dell'acqua che sgorga dal nostro rubinetto, almeno in gran parte delle città d'Italia, è buona, ci dobbiamo fidare. Questo è il risultato che emerge da una iniziativa condotta di indagine molto importante dall'Associazione dei Consumatori Altro Consumo, sempre molto impegnata con prove dirette sul campo, esattamente come fa in banca o presso le compagnie di assicurazione. Altro Consumo in questo caso è andata a monitorare l'acqua degli acquedotti di 35 città italiane. Allora, che cosa è emerso? Buongiorno a Matteo Metta, curatore dell'indagine per la campagna Bevi l'acqua di casa di Altro Consumo. Benvenuto. Buongiorno tra di noi. A tutti. L'inchiesta si intitola Oro Blu sgorga a casa tua. Allora, 35 città monitorate, in che modo e soprattutto, Matteo, con che risultato? Siamo andati in 35 città italiane, soprattutto capoluoghi di regione, ma anche centri molto popolosi o centri in cui sospettavamo ci fossero dei problemi, delle anomalie proprio negli acquedotti. E abbiamo fatto appunto dei prelievi con personale specializzato, abbiamo portato in laboratorio, abbiamo fatto uno screening a 360 gradi valutando appunto la qualità delle varie tipologie di acqua, calcio, durezza, fluoruri, fosfati, ma anche facendo analisi per capire se c'erano degli inquinanti o dei metalli pericolosi per la salute, quelli che poi peggiorano anche il gusto dell'acqua. ciò che è emerso è stato veramente sconvolgente, perché l'acqua di casa è buonissima, sicurissima, economicissima, tanto per parafrasare uno degli slogan di acque minerali più famosi, ma lo possiamo tranquillamente adattare all'acqua di casa, che è acqua, ricordo, oligominerale, con il giusto apporto di calcio e adatta anche alle diete povere di sodio. Ecco, poi ci interessa naturalmente capire quanto è più economica rispetto invece a quella che viene acquistata in bottiglia di plastica o di vetro al supermercato, però magari ci interessa anche, Matteo, una classifica delle città dove l'acqua è migliore rispetto ad altre città. Le due superstar in assoluto sono Potenza e Campobasso. Qui l'acqua è talmente buona che la si potrebbe veramente imbottigliare, se non fosse per il fatto che noi siamo appunto per bere l'acqua di casa e non per l'acqua in bottiglia. Poi anche Pescara, Frosinone, Roma hanno veramente acque ottime. Ricordo appunto quello che è successo a Roma, la cronaca nella scorsa estate ci faceva sapere, denunciava la vendita di bottigliette di mezzo litro d'acqua a 5 euro, a 3 euro, quando appunto Roma ha dei nassoni, delle fontanelle pubbliche che i romani chiamano affettuosamente nassoni, in tutta la città sono tantissimi, tanto che il comune di Roma insieme con la CE ha fatto una mappa dei nassoni, lo stesso ha fatto Venezia con le sue fontanelle, anche Cacciari ha fatto appunto una campagna proprio per bere, per invogliare a bere dell'acqua di casa, perché appunto le nostre analisi confermano che è assolutamente buonissima, tranne che a Reggio Calabria, dove non è potabile in quanto ci sono infiltrazioni di sale cospicue, oltre i limiti, quindi consentiti, non è assolutamente potabile. Non è neanche buona Lecce a Ferrara, dove abbiamo trovato dei cocktail imbarazzanti di trialometrani, solventi e diversi inquinanti che appunto la rendono veramente poco adatta a berla giornalmente. Ecco, Matteo, e anche noi, Catanzaro, sì, e Brescia. Brescia abbiamo trovato anche lì dei solventi, però lo voglio sottolineare perché ci tengo, si tratta comunque di percentuali bassissime di tracce, sono molto al di sotto dei limiti di legge stabiliti dalla legge, per cui si possono consumare ugualmente dalla normativa in vigore, e la normativa in vigore, questi limiti tutelano veramente al 100% la salute dei cittadini, perché si tratta di limiti molto restrittivi. Matteo, noi abbiamo naturalmente citato e raccontato della condizione dell'acqua delle 35 città che voi avete testato, però ovviamente il nostro paese è composto da molti piccoli centri, per cui qualora fossimo interessati a capire qual è la qualità dell'acqua nostra, dell'acqua di casa nostra, quella che sgorga dal nostro rubinetto, per come dire, cambiare le nostre abitudini di consumo e quindi magari evitare anche di imbarcarci sempre del consueto peso dell'acqua che compriamo al supermercato, risparmiando magari anche in termini di consumo di plastica, anche quello un tema ambientale che abbiamo qui affrontato molto importante. Come facciamo a monitorarla, a testarla? Perché i test da effettuare sull'acqua che consumiamo non sono poi economici in realtà. Non lo sono affatto. Diciamo che normalmente il più delle volte l'acqua di casa è adatta così com'è all'uso alimentare, è buona, però bisogna informarsi presso il proprio acquedotto, l'acquedotto di riferimento, perché sia l'acquedotto sia le ASL che devono appunto effettuare i controlli, e lo ricordo, devono effettuarli quasi giornalmente, mentre l'acqua minerale deve essere sottoposta a controllo obbligatorio almeno ogni 5 anni. Questa è la differenza. Quindi informarsi, perché prima di consumare soldi inutilmente in acqua di bottiglia o in filtri domestici, che la maggior parte delle volte danneggiano la qualità dell'acqua del rubinetto e ne aumentano la carica batterica, appunto il consiglio è quello di informarsi, perché effettuare le analisi a casa è abbastanza costoso. Poi certo, chiaramente noi abbiamo effettuato i controlli prelevando l'acqua dalle fontanelle pubbliche, la cui qualità dipende in toto dall'acquedotto. Invece quello che scorre dal rubinetto di casa non dipende solo dall'acquedotto, ma anche dalle tubature del nostro palazzo. Infatti, quindi anche la manutenzione di questo è molto importante. Quindi molto spesso magari il sapore dell'acqua che sgorga dal mio rubinetto, pur abitando magari in una città dove voi raccontate che l'acqua è ottima, magari a mia può avere un sapore alterato proprio per le condizioni delle tubature, quindi dobbiamo può anche essere tenere in considerazione ovviamente questi aspetti. Comunque quello che dico dicono a proposito del cloro, del calcare, così l'acqua del rubinetto si può migliorare. Il cloro è un gas, evapora facilmente, quindi lasciando riposare l'acqua in una caraffa per qualche minuto o un po' di più se possibile, e poi addirittura se la si mette in frigorifero perde qualsiasi retrogusto ed è buonissimo. E infatti allora io per concludere vorrei ricordare della partenza sul vostro sito, proprio della campagna dal titolo Bevi l'acqua di casa, che è rivolta a tutti i diffidenti, ai disinformati e ai palati esigenti. Noi terminiamo qua questa nostra trasmissione, non siamo riusciti ad affrontare anche il tema poi della ripercussione di queste condizioni dell'acqua sulle tariffe. Magari Matteo ci ritorniamo un'altra mattina, perché questo è un tema che piace molto ai nostri ascoltatori. Per il momento buona giornata e grazie per la vostra collaborazione. Grazie a voi, buona giornata. A risentirci, a presto. Alessandro. E allora eccoci qua, Deborah, alle 12. È presente, sta andando avanti tutta la procedura per la sanatoria di Colf e Badanti, ma dal Ministero dell'Interno ci dicono che insomma è una procedura che sta andando avanti piuttosto lentamente rispetto alle stime iniziali. Cosa starà succedendo? Come mai c'è tanta difficoltà nel compilare le domande per regolarizzare il nostro collaboratore familiare? Alle 8:33 minuti le notizie in primo piano sono queste. Il lodo Alfano è una norma legittima, in caso di bocciatura c'è il rischio di dimissioni per il Presidente del Consiglio, e l'allarme contenuto nella memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata per l'udienza del 6 ottobre, quando la Corte Costituzionale dovrà decidere sulla legge. Allarme occupazione in Italia per l'OCSE, il peggio deve ancora venire, 1.100.000 posti di lavoro in meno entro il 2010. Intanto il numero uno di Fiat, Marchionne, chiede incentivi per il settore auto anche per l'anno prossimo, altrimenti sarebbe un disastro, dice. Le cure palliative diventano un diritto e dovranno essere assicurate in tutta Italia, è quanto prevede una legge passata all'unanimità alla Camera e per la quale è stato stanziato un finanziamento di 150 milioni di euro. La legge prevede una procedura di accesso per tutti i malati alla cosiddetta terapia del dolore. Infine, per lo sport, il calcio. In Champions League è finita 0-0 la sfida tra Inter e Barcellona, con San Siro che ha fischiato Ibrahimovic. La Fiorentina invece in 10 per l'espulsione di Gilardino ha perso a Lione 1-0. E allora alle 8:34 minuti è il momento del nostro sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Vogliamo parlare di questo terribile fatto di cronaca. Due giorni fa, l'uccisione di Sana Dafani, 18 anni, uccisa molto presumibilmente dal padre, il primo sospettato, uccisa molto probabilmente perché il padre osteggiava una relazione con un italiano più grande di lui. Mi ha colpito alcune dichiarazioni, ci hanno colpito, che poi hanno dato spunto al nostro sondaggio. Assurda guerra di religione, il ministro Mara Carfagna, che ha annunciato sarò parte civile, e dice: è frutto questo omicidio di un'assurda guerra di religione che è arrivata fin dentro le nostre case. Ci vogliamo proprio chiedere questo: secondo voi è giusto far riferimento, tirare in ballo la religione in questo caso? Potete votare sul sito radio24.it. Ne è convinto per esempio Magdi Cristiano Allam, ne ho letto una parte nella sua rassegna, nella rassegna stampa. Oggi su Libero scrive: la violenza è insita nel credo islamico. Libero d'altronde titolava così in prima pagina: sembrava italiano, uccideva per Allah, niente meno. Voglio salutare Suad Sbai. Onorevole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Suad Sbai è onorevole, è marocchina, tra l'altro è presidentessa dell'Associazione Donne delle Comunità Marocchine in Italia. Secondo lei c'entra la religione? È giusto parlare di religione in questo fatto? Ma non sono totalmente d'accordo. Ecco, la religione, in quanto religione, nessuna religione vuole la violenza. C'è proprio un principio, parte proprio questo principio di pace. Però il problema è che ci sono degli estremisti che si sono organizzati dagli anni 90, 80, estremisti che purtroppo si possono dire che hanno importato questo Islam o interpretato questa parte Islam radicale, che non ha niente a che vedere con l'Islam, quello che ho conosciuto io in Marocco, per esempio, in Tunisia o altri paesi moderati. Hanno importato un Islam radicale, hanno portato un Islam che non riconosce conosciamo, che anche quello jihadista, per esempio, quello che indeggia all'odio, quello che non solo contro gli infedeli o i cristiani, anche contro i moderati, i musulmani che combattono contro questo estremismo che avanza, io dico avanza anche se ha cambiato strategia, avanza in modo silenzioso, avanza in modo subdolo, e purtroppo chi va in mezzo sono quelle comunità, quelli personaggi che ho problemi di analfabetismo, purtroppo lì dove loro lavorano molto hanno terreno fertile, insomma, e dove lavorano di più, e purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni queste drammatiche storie, non solo, perché noi con il numero verde riceviamo migliaia e migliaia di telefonate, sia della seconda generazione che delle donne, ma è agghiacciante quello che sentiamo. Però capisce, onorevole, che la differenza sostanziale, se io dicessi, o se voglio dire, se questo padre poi si scoprirà, insomma, come si presume sia stato lui l'assassino, se dico era un padre assassino, criminale, che ha sbagliato, oppure se dico era un padre assassino, criminale, musulmano e che ha sbagliato, perché su alcuni giornali... No, nel senso, guardi, io conosco la comunità ormai da 30 anni, è comunità che vive in Italia, è cambiata totalmente dopo gli anni 90, totalmente, posso anche dirlo anch'io questo, che è diventato estremista, forse ha cominciato a conoscere alcuni personaggi che... ti portano all'odio, ti portano alla violenza, questo fanno proprio il lavaggio del cervello sulle persone, è qui la differenza, non su tutti per fortuna, la maggioranza non ha niente a che vedere con questi personaggi, ma non c'entra, ecco, la religione musulmana, sì, questo va bene, possiamo dire che non può c'entrare, però c'entrano gli estremisti islamici, e qui gli estremisti islamici mica sono santi, si può certo. Anche criticare, e si può anche dire che sono dei delinquenti. Quindi c'è l'interpretazione. Che portano il pensiero contro la sacralità della vita. L'interpretazione religiosa, come dice oggi Dunia e Taib sul Corriere della Sera, l'orrore, dice in questa intervista, causato dagli imam in Italia. Io voglio salutare Mohammed Watik, buongiorno. Buongiorno. Lei è rappresentante della comunità islamica di Pordenone. Tra l'altro mi risulta che lei conoscesse e conosca bene il padre, e conosca questa famiglia, insomma. Sì, certo. Che ne pensa lei? Lei ha subito detto, credo, in alcune dichiarazioni, per favore non tiriamo in ballo l'Islam, per favore lasciamo stare la religione. Perché è convinto di questo? Sono convinto di questo. Quando si parla di integraliste e si parla di questi soggetti e dicono, ho sentito la dichiarazione della dottoressa adesso che sta parlando perché questo qua è un integralista. Io affermo che questa persona non è mai pregato. È una persona che non è mai venuta al centro e l'ho conosciuto da fuori e ho sempre parlato con lui quando c'è l'occasione di praticare, di venire al centro, perché noi, il nostro centro ha risolto parecchi problemi, conflitti familiari che sono, io credo che erano più gravi di questa qua, però questa persona è una persona che non ho mai pregato, una persona che anche c'è il problema di alcolismo di questa persona, una persona che non rispetta neanche la sua religione, una persona che vive una realtà neanche non era sua, non ha conservato la sua, non ne ha neanche, ha imparato dalle altre, diciamo, è rimasta una persona sospesa, né musulmano né cristiano. Però le chiedo, oggi sul Corriere della Sera, per esempio, si analizza molto la vita di questa povera ragazza, anche gli amici su Facebook, per esempio, raccontano gli compagni della scuola media di Azzano Decimo, dove viveva. Durante la ricreazione, l'ora della merenda, lei mangiava, ma non mangiava i panini, anche se ne andava pazza, perché il padre non perdeva occasione di dirle, è vietata ai musulmani mangiare prosciutto e salame. Lei si metteva in disparte, ingoiava tutto in un sol colpo, facendoci il gesto di stare zitti, di non dire nulla ai suoi. Un panino, un morso di nascosto, l'integrazione passa anche da qui, scrive Francesco Alberti. Lei però conferma, insomma, che in realtà non si tratta di una persona, di un fedele, insomma, che seguiva la preghiera, che seguiva i dettami dell'Islam. Certo, però noi sappiamo che anche la nostra le religioni vieta il consumo di alcol, il consumo di maiali, di carne di maiali, ovviamente per tradizione anche conosciamo queste cose qua, anche se la persona non è praticante, ma lui non ci permette magari di mangiare il maiale, però io lo vedo assurdo che lui vieta alla sua figlia il maiale, invece lui consuma alcol, è tutta una cosa al contrario, non so esattamente che tipo di persona è questo qua, ovviamente. Lei però, quindi, visto... La realtà è questa. Visto... Io affermo che non si tratta di un conflitto religioso o di qualcosa che la persona o le persone può pensare. È proprio un sbaglio grave. No, io non dico che non è un sbaglio. Noi, come comunità, diciamo... per questa persona o per questa violenza rifiutiamo che ci sia una cosa simile nella società, ma purtroppo ci sono dei casi, non solo perché questo qua appartiene all'area islamica, ma ci sono anche altre persone che hanno commesso forse lo stesso grave errore, che siano o cristiane o appartengono a altre etnie, però purtroppo ci sono questi soggetti che la società deve muovere per diciamo ammortizzare queste lei dice, situazioni lei, drammatiche. Lei dice insomma che può capitare in qualsiasi tipo di contesto sociale, culturale, anche di appartenenza di fede, di religione, di stile di vita. Oggi ne parla proprio, e lo voglio citare nel salutare il professor Renzo Guolo. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Renzo Guolo insegna sociologia dell'Islam all'Università di Torino. C'è con noi Muhammad Watik del Centro Culturale Islamico di Pordenone e l'onore Suad Sbai. Professor Guolo, prima di andare al traffico le voglio proprio dire, siccome Mohamed Watik dice ci sono stati in diversi casi, in diversi contesti, oggi Magri Cristiano Allam su Libero proprio dice, ecco, se ci si sbaglia di grosso, coloro che accecati dall'ideologia del relativismo ci dicono che tutto sommato queste cose succedono anche da noi. Si prende un padre che ha assassinato la figlia in Italia, si fa il nome e il cognome e il gioco è fatto. Invece secondo Cristiano Allam non è così. Lei che ne pensa? Che idea si è fatto, professore? Beh, è ovvio che questo caso solleva una discussione proprio perché il padre, come il padre di Ina, apparteneva alla comunità islamica o comunque era musulmano, e in un tempo in cui questa comunità è sotto osservazione un po' per i fatti internazionali, un po' per appunto il discorso delle relazioni tra culture, evidentemente il sistema mediatico lo pone lì, insomma, anche se un problema c'è ed è un problema legato al fatto dell'accettazione di scelte diverse, che però appunto, come è già stato detto, riguarda i singoli individui, nel senso che anche come sociologo io vedo la formazione di coppie miste e sono assai numerose, che non danno problemi di questo tipo. Quindi dobbiamo sempre stare attenti ad attribuire a eventi di questo tipo, pur tragici, un significato generale. Lei però oggi, scrivendo su Repubblica, prima lo citavo, diceva prima invece che parlare non si dovrebbe tanto parlare di Islam, ma di musulmani, certo. Insomma, del vario modo, anche qui è un mondo molto variegato, molto, non è monolitico, insomma, non è l'Islam uno. Questo è il punto, perché siamo in presenza di comportamenti assai diversi, a comunità ci sono individui che hanno orientamenti diversi, insomma ci possono essere osservanti stretti, islamisti o quelli che noi definiamo fondamentalisti, ma ci possono essere anche persone che vivono l'Islam come un puro riferimento culturale, che magari sono contestati dagli altri ma lo fanno, oppure persone che sono secolarizzate nei comportamenti. Tra questi gruppi c'è anche una sorta di movimento, passaggio, proprio perché le culture non sono immutabili, le culture mutano anche se non facilmente e con difficoltà nel tempo. Ecco, io credo che insomma il compito della società italiana sia quello di a relazionarsi con questa cultura, sapendo che non è facile l'interazione, ma allo stesso tempo affidare anche ai mutamenti culturali le trasformazioni. Ecco, la stessa libertà richiesta da queste giovani donne è un fatto importante, perché queste giovani donne sono pur sempre musulmane. Per esempio quelle che noi intervistiamo in alcune ricerche ci dicono: io voglio mantenere la mia fede, mi sento musulmana ma voglio essere libera. Quindi come si vede non c'è incompatibilità tra libertà e fede. bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Radio24.it o ilsole24ore.com per votare il sondaggio. Vi chiediamo se nell'omicidio, nella vicenda che coinvolge questa ragazza marocchina uccisa dal padre, molto probabilmente, c'entra e sia il caso di tirare in ballo la religione oppure no. La madre di Ina oggi sulla stampa, 3 anni dall'omicidio, qualche parola, poche parole più che un'intervista, insomma un incontro con la madre di Ina. Capisco mio marito, l'ho perdonato, nostra figlia sbagliava, mio marito è un bravo uomo, dice, non ha mai sgridato né picchiato la figlia, ma eravamo preoccupati, diceva che sarebbe tornata a casa e non lo faceva, frequentava un brutto giro, prendeva droga, non lavorava. Il fidanzato non c'entra niente, la vicenda del fidanzato. La religione non la tira in ballo, però su Adsby che ne pensa di queste dichiarazioni della madre di Ina che dice capisco mio marito, la figlia sbagliava? La madre di Ina io l'ho conosciuta, l'ho vista, l'ho conosciuta, insomma, perché siamo presentati parte civile del processo di Ina Salem. Devo dire è una persona che ha paura della comunità, una persona che non è libera, una persona che non ha, ha paura, una donna che non conosce la lingua italiana, che non si impegna neanche a impararla, una donna che ha paura, vive. Il problema è che alcune comunità controllano tutta la persona, controllano i comportamenti, controllano l'uso, anche molte ragazze scappano, vanno in Francia, noi abbiamo tantissime ragazze, anche figlie di mamma adesso scappano e vanno in Francia perché la vita è diventata impossibile qui. Certo, mi preoccupa, ecco, la mamma di Sanà, non sento, non vedo e non so che fine ha fatto, questo mi preoccupa. Però, come è successo per Ina Salem, qualche imam ha detto le stesse cose di questa mattina. Ah, ma lui beveva, ma lui non pregava mai, non è mai andato in moschea. Poi siamo arrivati, ma non si cioè, secondo lei cos'è, e visto che Mohamed Wautik l'ascolta, è un modo, come dire, proprio di togliere qualsiasi responsabilità, sì, qualsiasi attenzione dalle motivazioni religiose? Ho cominciato come, insomma, che l'Islam non c'entra niente, ma quello ha continuato a dire come ha detto la signora, come ha detto la dottoressa, e come alla fine mettono le cose non vere, le cose non vere. Io dico che c'è un gruppo estremista che vive nelle comunità, che lo preghi o non preghi, comunque condiziona la vita delle persone, perché diventa anche un orgoglio. È una come la mafia a tempi anni 30, insomma, è la stessa identica cosa. Wautik ha sentito, voglio dire, vuole replicare su Adsby, non è un tentativo per dire beveva, insomma, non faceva parte della comunità, come dire non c'entra con noi? No, è quando... Ma sempre quando si parla si mette in mezzo l'Islam. L'Islam non c'entra niente, il comportamento l'Islam ordina il bene e condanna il male. L'Islam lo dice che ha fatto vivere un'anima come fosse ha fatto vivere tutte le anime, che ha ucciso un'anima come fosse ha ucciso tutte le anime. E allora non continuiamo sempre a prendere la gente in giro, diciamo l'Islam, integrarsi. L'integralista si assume la sua responsabilità, come si trovano integralisti dappertutto, in tutte le religioni, in tutte le, diciamo, le idee, diciamo, allora non è giusto, mettiamo sempre in ballo l'Islam, dice guarda l'Islam è la violenza, ma se un musulmano commette un errore, commette anche un reato del genere, si assume lui la sua responsabilità. Su Adsby cosa non le sta bene? Non la comunità islamica, noi musulmani, un integralista si assume lui, non che ha interpretato, però l'Islam è innocente di queste... Perché la deve... Onorevole Sbai, perché la deve smettere? Perché la deve smettere? Allora, la deve smettere. L'Islam non ha bisogno di essere difeso da gente come lui, come questo personaggio che difende l'estremismo o l'integralismo. La deve smettere. L'Islam è una cosa, l'estremismo, l'integralismo è un'altra cosa. Portano violenza, come non solo in Italia, in tutti i paesi paesi europei e anche in paesi arabi, la deve smettere. Nessuno sta parlando male dell'Islam, stiamo parlando male di musulmani che non sono dei santi. Se si comportano male dei musulmani e anche integralisti, si può criticare, criticare, non siete dei santi, la dovete smettere, state facendo dei danni madornali, irrecuperabili, state facendo dei danni irrecuperabili su questi bambini, queste ragazze giovani, la dovete smettere, dovete andare a scuola, a studiare, se no quindi rinunciamo tutti quanti, dovete andare in galera. La dovete smettere, qui nessuno sta parlando come religione islamica, stiamo parlando dei delinquenti che usano l'Islam. Allora, questi delinquenti assumono la loro responsabilità negativa alla popolazione, quello che dice, non c'entra nulla. Quello che dice Suad Zbai, effettivamente, Mohamed Watik dice: perché far pagare in qualche modo un'intera comunità o tirare in ballo la religione se una persona sbaglia? Voglio dire, sbaglia, chiaramente, se è un omicida ed è lui, insomma, pagherà le sue conseguenze, come ha pagato il padre di Nina Salem, condannata all'ergastolo. Questo è il tema. Io ho 30 secondi. Professor Guolo, si vuole inserire lei per farmi una chiosa su questo? Cioè, voglio dire, abbiamo capito, ecco, ministro Carfagna ha detto, per esempio, è un'assurda guerra di religione che è entrata nelle nostre case, ecco. Che ne pensa, insomma? Ma io non parlerei di guerra di religione, tanto più in questo caso. Insomma, credo che, come è stato detto, la responsabilità attengono anche ai singoli, alla tradizione. Il problema è non giustificarla, il problema è evitare che si formino nicchie comunitarie che presuppongono un'autosufficienza e che non interagiscono con la società italiana e viceversa. Insomma, io credo che il grande sforzo sia l'interazione e la convivenza e non un modello che, anche per effetto di politiche di chiusura, preferisce che si formino comunità chiuse, perché questo non produce integrazione, ma sostanzialmente, certo, del ghetto, comunità, diciamo, giusta apposta. Io, professore, la ringrazio, così come ringrazio l'onorevole Suad Zbai, Mohamed Watik, responsabile della comunità islamica a Pordenone. Insomma, il sondaggio lo potete ancora votare, alle 13 vi daremo il risultato, radio24.it, il sole24ore.com. Al momento devo dire che per il 60% delle persone che hanno votato, sì, è giusto, diciamo, anche tirare in ballo, parlare della religione in questo caso di cronaca. Alessandro Marcotulli con Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domattina 7:30 puntuali con 24 Mattino. A domani.